ci stava a guardare nel silenzio. Il senso dello spazio ci divide già. Mi fermo qui davanti a questo muro, ogni parola non ha più peso dell'aria che si confonde in noi. Non respirare, questo momento non ha età, e un vago senso di vuoto ci colora. Ti prego, lasciami solo. Si confonde in me quando tutto è qui, quando tutto è fermo. Non chiedo pietà, chiedo di lasciare che tutto passi.